20:55 qui da Radio Onda Rossa. 87.9 in modulazione di frequenza. Il sito della radio è www.ondarossa.info. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Oggi è il 19 maggio del 2021. Questa sera a 25 o'clock non andrà in onda. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Naturalmente vado a ricordare l'urgenza della nostra campagna di crowdfunding, 30 euro per 1000 ascoltatori. Una campagna che andrà avanti fino a settembre, quindi chi volesse aderire lo può fare tranquillamente andando a cliccare sul banner specifico e scegliersi poi la modalità di adesione. Dunque, una serie rapidissima di saluti. Salutiamo in Sardegna, come al solito, Maya e Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Nadir Persegona dal suo posto di lavoro in fabbrica, credo dal Piemonte, ci sta ascoltando. Sirena Velena da Parma, Lucia Cagliazza, Lupsi, Ant Christ di Omicidio, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Roger Kemper della Formaldeide e altre cosine che si possono andare a visitare sul sito Bandcamp. Roberto Faloci di Phantom Ship, il medico della peste. E poi Tabula Rasa, Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster, Like Awake, realtà Space Ambient qui di Roma, Emiliana Voltarelli di Braconide. Dice Roger Kemper, cosine che è meglio non sapere esistono, ma io ve li consiglio. Comunque Nadir ci sente da Treviso, quindi in Veneto, fa parte della grossa colonia veneta che ci sta ascoltando.